piano. Di Enrico Ruggeri. Quello dell'attore, se sei un grande attore, è un mestiere difficile, bisogna immedesimarsi in personaggi diversi da quello che si è in realtà e diversi tra di loro, insomma non bastano tecnica e studio, ci vuole una variabile molto importante, cioè il talento, quello che differenzia un grande attore da un attore mediocre. La cosa diventa ancora più evidente se bisogna interpretare un ruolo comico e far ridere è una cosa molto difficile, anche perché uno l'applauso te lo fa per gentilezza, ma se non gli viene da ridere non ce la fa a ridere per finta. E poi non basta dire una buona battuta, bisogna saperla dire, bisogna avere i tempi giusti, è una combinazione che riguarda il tono della voce, la mimica facciale, i movimenti del corpo. Se noi andiamo indietro nel tempo, quando il cinema muoveva i primi passi, quando non c'era ancora il supporto del sonoro, ci rendiamo conto che e questa combinazione di sguardi, di espressioni, di sfumature, di fisicità diventa fondamentale. Bene, oggi noi raccontiamo una coppia di comici, la coppia di comici, e due personaggi talmente affiatati da essere considerati un unico elemento. Non siamo stati in grado di pensare a fare una puntata su uno dei due, quando ne nomini uno ti viene in mente l'altro. È una coppia che ancora oggi viene presa a esempio, ha avuto successo in tutto il mondo, ha fatto ridere intere generazioni. Non esiste uno che non abbia visto almeno una volta nella vita le comiche di questi due, che sono Stanlio e Ollio, cioè Stan Laurel e Oliver Hardy. Una gran bella giornata. Apri la radio che sentiamo un po' di musica. Ho fatto bene a vendere il negozio. Ora abbiamo una bella automobile e per di più un impiego sicuro. Assolutamente complementari, uno era magro, allampanato, con due grandi orecchie a sventola, l'altro era il grasso, con i baffetti sottilissimi che accentuavano la sua pinguedine, con una cravatta con la quale giocava. Due personaggi opposti tra loro che sul set hanno creato una combinazione perfetta per far ridere. Eppure le strade di questi due attori partono da molto lontano. La prima parte nel 1892 a Harlem, non il quartiere di New York, ma una tranquilla cittadina nello stato della Georgia, e lì nasce Oliver Norvel Hardy. Nella sua famiglia non c'è nulla che abbia a che fare col mondo dello spettacolo, il padre è avvocato, peraltro muore un anno dopo la sua nascita, con una madre che si ritrova a dover crescere cinque figli. Oliver è il minore, il più piccolo di tutti, beh, piccolo per modo di dire, perché lui è sovrappeso fin dalla nascita, i suoi amici lo prendono in giro, lo chiamano il ciccione, e lui a queste provocazioni però risponde con un sorriso, con un'autoironia che gli sarà fondamentale nella vita. Impara fin da piccolo a fare tesoro di questa sua arte, quella di rispondere alla sua grassezza con ironia. E non è il tipo, insomma, a cui piace fare a botte, è un sognatore, gli piace cantare, lo affascina il mondo del teatro e anche di quel cinema che sta muovendo i primi passi. Si avvicina al mondo del cinema, entra dalla porta di servizio, fa il proiezionista. E intanto dall'altra parte dell'oceano, nel Lancashire, in Inghilterra, nasce il 16 giugno 1890 Arthur Stanley Jefferson. Qui invece l'imprinting è diverso, i genitori sono attori di teatro, quindi si avvicina subito a questo mondo. Inizialmente si presenta col nome di Stan Jefferson, poi qualcuno gli suggerisce di cambiare quel nome perché era composto da 13 lettere. Anche Enrico Ruggeri è composto da 13 lettere. Ma è lì, in quel mondo, nel mondo anglosassone, il 13 porta male. Insomma, lui lo cambia in Laurel, Stan Laurel, 10 lettere. E fin dalle prime esibizioni lui si identifica come un attore comico, gli piace molto anche fare lo sceneggiatore, il regista, si interessa di quello che c'è dietro alla macchina da presa. Nel 1910, ventenne, entra a far parte della compagnia teatrale di Fred Carno, un personaggio particolare, un impresario con molto fiuto, uno scopritore di talenti. La compagnia va fa negli Stati Uniti, c'è una lunga tournée da fare, e nella compagnia c'è anche un giovane attore che è destinato a diventare un altro dei più grandi attori comici di tutti i tempi, Charlie Chaplin. Sono anni di gavetta di spettacoli teatrali in giro per gli Stati Uniti e Charlie Chaplin nel 1912 lascia la compagnia per passare al cinema, con le conseguenze che ben sappiamo, da lì inizierà la sua fortuna. Quindi non c'è più il capo comico, la compagnia si scioglie. Stan Laurel però decide di rimanere in America e lavora in teatro, si avvicina al mondo del cinema, non ha successo e quasi sembra che abbia bisogno di una buona spalla capace di scatenare la sua vena comica. E tanto Oliver Hardy si è trasferito a Jacksonville in Florida, dove un produttore che si chiama Sigmund Lubin crea una casa di produzione che si dedica al genere del momento, che è quello delle comiche. Oliver è alto più di 1,80 m, pesa 120 kg, non è difficile trovare una parte nel film in persona quasi sempre il ruolo del ciccione cattivo, quello che il comico di turno deve affrontare in avventure nelle quali il ciccione in maniera grottesca perde, diciamo così. E in quel periodo lui si fa chiamare Baby Hardy, e lui stesso a raccontare da dove derivi quel soprannome. Questo nome risale al mio primo taglio di barba. Il barbiere mi ha rasato, poi ha messo il borotalco e mi ha detto: sei a posto, baby. La barba è andata via e il nome è rimasto. Nel 1921 avviene il primo incontro tra i due attori, l'occasione è un film, The Lucky Dog, il cane fortunato. Stan Laurel viene da una serie di film poco fortunati e lui si è dedicato soprattutto alla regia. In questo caso interpreta il ruolo di un vagabondo sicuro di sé, e pensate a quanto questo personaggio poi sia diverso rispetto al personaggio che ha recitato per tutta la vita, cioè il pasticcione, no? E Oliver Hardy invece interpreta ancora una volta il ruolo del cattivo. Il film ha un buon successo, non tanto ma un buon successo, e tutti in realtà stanno impazzendo per il talento di Charlie Chaplin, la cui fama è esplosa proprio in quell'anno con il Monello. Comunque, in The Lucky Dog, Laurel e Hardy recitano assieme, ma non sono ancora una coppia, insomma, ognuno sta andando per la sua strada. Poi negli anni tra il 1921 e il 25 Stan Laurel torna dietro alla cinepresa, diventa un regista di punta degli studi di Los Angeles di Al Roach. Roach è il più importante produttore di film comici del momento. Stan Laurel ha la possibilità di fare quello che ha sempre sognato di fare, cioè il regista. Oliver invece continua a fare spettacoli teatrali, qualche piccola apparizione cinematografica, poi decide di spostarsi in California, dove pensa, e ha ragione, che le opportunità per fare del cinema siano più numerose. E nel 25 viene scritturato per una serie di film comici che saranno diretti da Stan Laurel. Lui interpreta l'omone baffuto che perde la pazienza, che gioca timidamente con la cravatta, che strabuzza gli occhi in caso di pericolo. Sta nascendo lentamente il suo personaggio, il personaggio di Ollio, ma per far incontrare Ollio e Stanlio ci vuole un piccolo incidente domestico, e il destino ci mette la sua, come quasi sempre accade, perché Oliver Hardy si ustiona un braccio cucinando un cosciotto d'agnello. La produzione del film che sta girando in quel momento decide di sdoppiare il personaggio di Oliver, chiede a Stan Laurel di prendere il suo posto per qualche giorno, gli chiede insomma di tornare a recitare pur mantenendo il controllo artistico del film. Questo era un escamotage che era nato dalla necessità di non bloccare la produzione, però tutto questo non passa inosservato al Roach, che decide di far lavorare insieme questa nuova coppia, li mette uno al pari dell'altro. È una intuizione che farà la storia del cinema, perché i due attori assieme hanno un potenziale comico enorme. Così dal 25 al 29 Roach mette a disposizione i migliori scrittori e sceneggiatori della neonata Metro-Goldwyn-Mayer, che distribuisce i film, e vengono prodotti una serie di cortometraggi comici che consolidano la nuova coppia Oliver e Hardy, o come li conosciamo noi in Italia, Stanlio e Ollio. Beh, in realtà sono anni, diciamo, di avvicinamento a quello che sarà l'aspetto definitivo della coppia. Film dopo film salta fuori qualche scenetta, qualche atteggiamento di uno o dell'altro. Sono dei semi che daranno il frutto qualche anno dopo. Così piano piano viene fuori il pianto isterico di Stanlio, quello lì, no? Le cadute rovinose di Ollio, Stanlio che si gratta la testa, che annuisce con soddisfazione lo sguardo insofferente di Ollio, e poi lo sguardo in macchina di Ollio. Quella è stata un'altra grande svolta, quando Ollio pensa di subire qualcosa di terribile dal destino, guarda in macchina, e questa è stata una grande novità. Insomma, tutto è pronto per il grande colpo d'ala della coppia, un film che li faccia arrivare al successo, che li consacri come la miglior coppia comica del momento. Intanto sul finire degli anni 20 il cinema sta vivendo un momento di cambiamento epocale, si sta passando dal muto al sonoro, e è una selezione naturale terribile, perché ci sono attori che non hanno una bella voce, sono stati bravi solo a guardare in macchina, non so, aggrappandosi a una tenda o facendo gli occhi spiritati. Bene, e queste carriere vengono interrotte improvvisamente e questi attori vivono il loro viale del tramonto. Scusate, Jack, è colpa del mio socio. Vedete, non si è ancora rimesso del suo esaurimento. Non è chiedere più, vero, sicuro. Arrivederci. Ok, non sei più attento. Ma non sapevo che fosse là sopra. Vuoi farci arrestare prima che arrivino i clienti? A che ora saranno qui? Beh, saranno qui, voto. A che ora saranno? I clienti vengono sempre. Prendi una scala e metti la lampadina. Va bene. Stanlio e Ollio invece riescono a ottenere nuovi stimoli da questo cambiamento, possono aumentare la comicità di alcune battute proprio grazie al sonoro. Sono anni particolari perché non c'è ancora il doppiaggio. Può capitare che la produzione decida di girare lo stesso film 4-5 volte, facendo recitare gli attori in francese, in tedesco, in spagnolo, in italiano. Quindi immaginate attori che recitano leggendo sul gobbo le battute del film in una lingua che non conoscono. E quindi è vero, sono film in cui si parla poco, ma ci sono delle parole chiave che vengono storpiate e massacrate in una lingua straniera, e questo naturalmente accentua l'effetto comico. E pensate quello che succede in Italia, le parole stupido e cose di questo genere. Insomma, Stanlio e Ollio diventano famosi in Europa, dove vengono distribuiti i loro film. In Spagna li chiamano il gordo e il flaco, cioè il grasso e il magro. In Germania sono Dick und Doof, e in Francia, naturalmente, siccome i francesi se ne fregano della pronuncia corretta, Laurel et Hardy. E in Italia Stanlio e Ollio, anche se nei primi tempi vengono anche conosciuti col nome di Crick e Croc. Questa è la famosa marcetta di Crick e Croc, in Italia la chiamano così. Il pezzo originale è stato composto da Marvin Hatley, si chiama The Cuckoo Song, è un motivo nato per caso che è stato perfezionato da Stan Laurel, che in questa occasione dimostra di avere in mano le redini, la direzione del duo comico. Sentite in questo audio, tratto da un documentario di Giancarlo Governi, come è nata la canzone, e sentitelo proprio dalle parole del compositore. In quell'epoca lavoravo alla stazione radio degli studi di Arroce, in una sala al secondo piano. Un giorno, mentre strimpellavo il pianoforte, mi venne fuori quel motivo. Stan lo sentì e salì le scale, era al piano di sotto, e mi disse: ecco, questa sarà la mia sigla musicale, sei d'accordo? Io risposi di sì. La frase musicale con i toni più alti sarà di Oliver, che è imponente, deve essere come un segnale di adunata per i militari. E poi aggiunse: la mia invece sarà un po' folle, come il canto del cuculo. La mia mente è limitata, questa è cosa risaputa. Quindi misi insieme le due frasi così. Questa dissonanza che farà la storia. Con i primi film sonori, la popolarità di Stanlio e Ollio supera l'oceano, invade l'Europa. Intanto negli Stati Uniti loro si sono affermati come la più divertente e folle coppia del momento. È un colpo d'ala che è destinato a continuare ancora per molti anni. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di due persone. Una storia è partita dall'Inghilterra, l'altra dall'America, e i due si sono incontrati e hanno dato vita a una delle coppie comiche più famose di tutti i tempi, a mio giudizio la coppia più famosa di tutti i tempi. Sto parlando naturalmente di Stan Laurel e Oliver Hardy, per tutti noi Stanlio e Ollio. E in quel momento loro sono una novità nel genere cinematografico. Prima c'era sempre un comico e una spalla, qui siamo in presenza di due comici che hanno la stessa presenza scenica, anche se completamente diversa, e riescono entrambi a strappare la risata anche quando sono in scena da soli. Nel 1930 era avvenuto il passaggio definitivo dal cinema muto a quello sonoro, e naturalmente siamo ai primi anni. Per supplire alla mancanza di studi di doppiaggio, Oliver e Hardy girano lo stesso film in lingue diverse, parlando in una lingua che non conoscono. E la lettura del gobbo, lo abbiamo già detto, provoca un ulteriore effetto comico devastante. Alcune parole vengono pronunciate in modo storpiato, con gli accenti sbagliati, ed è qui che è per questo che noi li ricordiamo: stupido, arrivederci, come un pisello nel suo baccello, eccetera eccetera, parole che vengono mantenute anche con l'avvento del doppiaggio. E mentre il doppiatore di Stanlio da subito diventa Mario Zambuto, per Ollio si alternano varie voci fino a che non approda un inconfondibile Alberto Sordi. Tutti neutro, vedi questo. Prendi questo. Partite? Sì, signore. Sbagliata, Con una merendina. Oggi è una bella giornata. Buon divertimento. Arrivederci. Arrivederci. Addio. Buon viaggio. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Addio. Tornate presto. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Eh sì, i doppiatori sordi in particolare mantengono quella caratteristica, diciamo, di pronuncia italiana approssimativa, e questa è è un ingrediente ulteriore per il successo. Il periodo che va dal 30 al 34 è considerato da tutti quello della produzione migliore di Oliver e Hardy. Sono forti anche della presenza di Al Roach, e lui produrrà una quarantina di film della coppia, affiancherà personaggi ricorrenti che compaiono in molti film come Spalle, ricorderete l'omino con pochi capelli in testa e due lunghi baffi, si chiama James Finlayson, e conquista la posizione, diciamo, di spalla d'onore della coppia. È il cattivo che poi subisce invariabilmente gli scherzi, le ritorsioni dei due. E poi nel 32 arriva il riconoscimento più alto, il premio Oscar per La Scala Musicale. È una comica che racconta, me la ricordo perfettamente, è il tentativo da parte di Stanlio e Ollio di consegnare in una villa un pianoforte. Per farlo devono trascinare questo pianoforte su per una lunga scalinata, e naturalmente alla fine distruggeranno tutto. Insomma, è una scena mitica. Pensate che io da bambino, da ragazzino, 11-12 anni, scappavo dalla classe appena era finita la scuola, perché alla una al sabato facevano le comiche di Stanlio e Ollio, e la scena del pianoforte l'ho vista proprio lì per la prima volta. Insomma, arriva il premio Oscar ed è una consacrazione per la coppia, che riesce a conciliare la critica e il pubblico. Poi nel 35 la collaborazione con Al Roach comincia un po' a incrinarsi, affiorano i primi litigi tra il produttore Stan Laurel, che è vero che in scena interpreta il personaggio dell'inetto, del pauroso, del privo di carattere, però in realtà è la vera testa pensante del duo. Tutti raccontano di momenti nei quali Oliver Hardy va a giocare a golf e Stan Laurel invece passa le notti intere al montaggio del film. Insomma, lui è un esperto ed è vuole in mano lo scettro del comando, e a un certo punto comincia a contestare la produzione. C'è un periodo piuttosto travagliato che dura 5 anni, vengono prodotti altri 60 film, però il sodalizio tra Laurel e Hardy da una parte e Al Roach si rompe, e questo, va detto, sta per segnare un colpo d'ala verso il basso nella loro carriera. Intanto chiaro, escono film come I figli del deserto, Gli allegri gemelli, I fanciulli del West. Sono film in cui la coppia mostra tutto il suo repertorio, battute esilaranti, scenette che magari derivano ancora dalla grande esperienza col cinema muto, poi balletti, canzoni che sono entrate nella storia del cinema. E tra le gag più riuscite ci sono le famose scenette della risata, c'è un motivo fortuito, Stan Laurel che comincia a ridere, Oliver Hardy che lo guarda con il solito sguardo di insofferenza e di disapprovazione, magari guarda anche in macchina per dire al pubblico guardate che scemo che ho al mio fianco, e poi alla fine si lascia coinvolgere nella risata e questo scatena l'ilarità del pubblico, perché poi i tempi teatrali sono di una perfezione mai più eguagliata. Poi non so, c'è una scena dei Diavoli Volanti del 39 dove c'è una canzone che nella versione originale si chiama Shine on Harvest Moon, in italiano viene adattato con Guardo gli asini che volano nel cielo, Alberto Sordi con la voce di Olio la canta in un celeberrimo balletto passato alla storia. Guardo gli asini che volano nel cielo, vanno in pattere sulle nuvole, si divertono a fare cigli nel ruscello. Il film è del 39, è uno degli ultimi grandi successi della coppia. In realtà dopo la separazione dal Roach cominciano a mancare quegli sceneggiatori, quella squadra di sceneggiatori che avevano contribuito a scrivere le scenette comiche. Il periodo tra il 40 e il 45 è costellato, diciamo, dai tentativi di ricreare quelle atmosfere, però la coppia comincia a apparire stanca, i tempi stanno cambiando e qualcosa è cambiato anche attorno a loro, e allora loro decidono di fermarsi, di smettere di dedicarsi al cinema, di continuare esibizioni nei teatri di tutti gli Stati Uniti, dove stanno riscuotendo ancora parecchio successo. Ci penso io a questo, hai combinato abbastanza guai tu. La borsa o la vita? La borsa a chi? Dimmi chi sei, l'impaurirà. Io sono il diavolo. Già, e se non stai in guardia ti fissa la gola da qua a là. Per tutta la regione. Sta attento ai passi falsi. Dunque tu sei fra diavolo. Non mi hai mai visto, non è vero? Ma hai udito la mia voce. Guardate un fiocco rosso, diavolo. Non la so. Guardate un fiocco rosso, riparta col cappello e di velluto indosso, ricchissimo mantello, tremate fin dal sentier del tuono, dell'eco viene il suono, diavolo, diavolo, diavolo. Eh sì, questa è la scena in cui lui vuole rapinare fingendosi fra diavolo, incontra proprio il vero fra diavolo con conseguenze meravigliosamente comiche. Siamo nel 1950, la stazione Termini di Roma si blocca perché su un treno proveniente da Genova, dove sono arrivati sbarcati in nave, Oliver e Hardy camminano tra due ali di folla col loro volto sorridente. È un filmato molto famoso, sono in Italia per promuovere appunto il film Fra Diavolo, film del 32 che è uscito solo dopo la guerra, e mentre negli Stati Uniti la fama del duo sia in una fase discendente, e in Europa arrivano i film più famosi distribuiti con molti anni di ritardo, e questo di fatto allunga il periodo di celebrità dei due. Però naturalmente visti dal vivo, insomma, i due appaiono con un volto, una freschezza diversa, sono passati quasi 20 anni da quando sono stati girati i film che loro adesso stanno promuovendo, ci sono delle rughe, e poi c'è il cuore di Oliver Hardy che comincia a fare i capricci. Insomma, il tempo sta presentando il conto alla coppia più prolifica del cinema comico americano. Il falco e il gabbiano. vi stiamo raccontando la storia di una coppia, la stiamo raccontando come se parlassimo di una persona sola, perché sono assolutamente inscindibili, complementari, uno inglese, uno americano, uno magro, uno grasso, uno vittima, uno carnefice a turno, però alla fine non puoi non parlarne a due. Non erano amici fraterni, però naturalmente si stimavano, si volevano molto bene, e nessuno dei due attori poi ha più lavorato da solo con qualcun altro. Agli inizi degli anni 50 è arrivata la televisione, vengono riproposti i loro film e loro vengono chiamati per una nuova produzione dal figlio di Al Roach, il produttore che aveva fatto la loro fortuna, però per uno scherzo del destino, proprio all'inizio delle lavorazioni, Stan Laurel viene colpito da un ictus, successivamente Oliver Hardy comincia a vedere aggravarsi il problema che ha al cuore, insomma il progetto fallisce. L'ultimo film e Atollo K, che si dimostrerà però un insuccesso. Oliver, poco tempo fa abbiamo incontrato Stan e abbiamo saputo che sarete di nuovo insieme in un film. Ma non siamo mai stati separati. È vero, ma molta gente lo pensava. Lo so, ci hanno confuso con altre coppie di comici. Io e Stan siamo ancora insieme dopo 23 anni e siamo ancora amici. È un record. Eh sì, questa è una stoccata verso altre coppie come Gianni Pinotto, Abbott e Costello, che in quegli anni stanno vivendo anche loro il declino della loro carriera. La considerazione generale è che la gente si sta abituando, insomma, a un nuovo genere di comicità meno legato a quelle gag che in fondo affondavano le radici nel cinema muto. Qualcuno ha detto che la carriera di un comico può durare al massimo 15 anni, forse è una verità che stanno vivendo anche Oliver Hardy, che in più devono fare i conti con il tempo che, come dicevano i Rolling Stones prima, non aspetta nessuno. E il tempo è quello che poi mette i bastoni tra le ruote veri nella carriera della coppia. Oliver Hardy dal 55 sempre più sofferente, comincia a dimagrire. Se navigate un po' su internet, se guardate filmati su YouTube, ne troverete uno a colori, un filmato amatoriale girato in Super 8 da un ammiratore dei due, siamo nel 56, però non è un filmato divertente, lascia un po' l'amaro in bocca. Si vede un Oliver Hardy ormai magro, visibilmente invecchiato, quasi grottesco, che sta indossando un paio di pantaloni di qualche taglia più grande. Sono le immagini di un uomo che sta combattendo la sua battaglia silenziosa, e poi un altro infarto, poi un ictus, e altri anni che passano dopo mesi di sofferenze, e poi si arriva al 7 agosto 1957, a 65 anni Oliver Hardy muore. Il giorno del funerale Stan Laurel non è presente, il medico gli ha proibito di avere forti emozioni, e in alcune dichiarazioni alla stampa dichiarerà: oggi è morto un fratello, questa è la fine della storia di Stanley Olio. Negli anni il mito di Stanley Olio non si è affievolito, si è rafforzato, anzi, di anno in anno le comiche sono state restaurate, colorate, ridoppiate, imitate, la loro comicità ha rappresentato una forma di letteratura che tutte le nuove generazioni di comici hanno studiato per arrivare al successo. E in questo caso la televisione è stata di grande aiuto, perché varie generazioni, per esempio la mia, hanno potuto vedere le gag di Stanley Olio, magari con un occhio diverso, ma comunque, insomma, io le mie prime grandi risate di infanzia le ho fatte proprio con loro. E nei tempi più recenti abbiamo riso di Mr. Bean, di Benny Hill, ma in qualche modo il germe della comicità anche di questi, uno inglese e uno americano, va ricercato proprio nella coppia formata da Stan Laurel e Oliver Hardy. Hey Stanio, Topido, sono qui. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno? Olio, sei proprio tu. E come, ne dubiti? Oh, sei tornato. Finalmente riuniti. vi sarete accorti che in questa clip la voce non è più quella di Alberto Sordi, proprio a sottolineare il fatto che in tempi più recenti i film sono stati restaurati e con nuovi doppiaggi, con nuove voci. Dopo la morte di Oliver Hardy, Stan Laurel l'abbandona ovviamente il mondo del cinema, si ritira a vita privata. Nel 61 gli viene consegnato l'Oscar alla carriera e lui lo accetta a nome di entrambi. Poi in realtà rifiuta qualsiasi occasione di partecipare a film, anche solo con dei piccoli cameo. Ancora una volta a riprova che non stiamo parlando di due persone distinte, ma di un'entità che negli anni si è consolidata in una unica figura artistica. La fine della carriera di Stan Laurel termina con la morte di Oliver Hardy, poi in realtà la morte fisica di Stan Laurel avviene nel 1965. Ma non si può stupire. Cosa? Siamo due persone adulte, parliamo come due bambini. Davvero dovremmo vergognarci. Ne vogliamo smetterle? Per questo non concludiamo mai niente. Uniamo i nostri cervelli e forgeremo l'avvenire. Ricordati, uniti dominiamo. Diviti. Esattamente questo è quello che è successo a Stanlio e Ollio. Ci sono altre cose che potete andare a vedere se siete maniaci di YouTube e di internet. C'è un balletto del 37 che è stato ripreso decine di volte e su questo video ci sono state appoggiate molte canzoni. Insomma, Stanlio e Ollio sono ormai delle maschere che fanno parte della nostra cultura e per questo rimarranno vivi per sempre. E da amante dei Beatles non posso non ricordare che per Stanlio e Ollio c'è anche un posto nella celebre copertina dell'album Sgt. Pepper. Stan Laurel e Oliver Hardy, due uomini che con le loro diversità hanno saputo mostrarsi al mondo come una persona sola e hanno segnato la storia del cinema e della comicità in maniera indelebile. Un colpo d'ala di due persone che hanno volato assieme. Noi vi aspettiamo e vi chiediamo di segnalare via mail al Falco il Gabbiano @radio24.it se conoscete una storia che volete che noi ci racconti, oppure seguitemi sui nostri social e insomma se mi cercate mi trovate. Arrivederci a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni. Generation.